dentro a un flash, memorie di te. Narciso il mio amore, narciso di cuore, rincorre un brivido di note, notte di musica dolce morte, sapori, odori, colori, tocco di te, tocco di te, tocchi in me, orgasmo cerco queste storie storte, eco, ecco, brivido di te, brivido di te, brivido, brivido dentro un flash, brivido, brivido dentro un flash, memorie di te, narciso il mio amore, narciso di cuore, rincorrere un brivido di notte, notte di musica, dolce morte, cerca la sete che dissete solo te, solo te, solo te, dentro due mosse delle mie alpe, rincorse stelle che mi conducono a belle sere, serenate di lunatica, te lirica di brividi. Non voglio buttarmi via, accendi la mia via, illumina il vero, ogni paradossia, possiedi carne ossa, possiedi anche dimmi, t'amo a fiondabra di rose nere, profumo di brividi, rimi, la tua pelle, vecchi lividi, dimmi, chi vuoi dimenticare in un mare di piangere, lacrime care amare, amore mirami al cuore, accendimi brividi, brivido, brivido dentro un flash, memoria di te, narciso d'amore, narciso di cuore, rincorrere un brivido di notte, notte di musica dolce morte, brivido, brivido dentro un flash, memoria di te, narciso d'amore, narciso di cuore, rincorrere un brivido di notte, notte di musica dolce morte, brivido, brivido dentro un flash, memoria di te, narciso mio amore, narciso di cuore, rincorrere un brivido di notte, notte di musica dolce morte, dolce morte, dolce morte, dolce morte.